Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Questo professore universitario che si converte all'Islam è importante che sia seducente. Non vuol dire che io lo approvi, ma deve essere seducente e lui lo è. Lui sceglie per interesse, per curiosità. Naturalmente questo era l'inizio della trasmissione di ieri, ma rimane memorizzata dentro un computer, quindi è normale che in un momento di magari confusione, perché c'era un problema di segnale, è andata. Adesso la trasmissione di oggi inizia così, inizia, già ve lo preannuncio, sul commento della frase del Papa: mai un volo aereo fu più proficuo di ispirazioni teologiche. Il Papa nell'aereo di ritorno da Manila, nel viaggio d'andata, si era espresso nel cosiddetto pugno d'ammazza coniglio, come viene detto dalle mie parti, era voluto colpire chi offende la madre. Nel viaggio di ritorno se la prende ancora una volta con i poveri conigli. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No. Per fortuna c'è la lavastoviglie, che con 8 figli ci sono tanti piatti da lavare. Questo è chiaro. Noi siamo una famiglia numerosa, perciò è importante, ognuno deve aiutare un po', io aiuto in cucina. Questo è chiaro. E i miei fratelli fanno i letti o qualcosa, ognuno fa qualcosa ogni giorno, perché sennò... Paternità responsabile. La mamma c'ha un sacco di cose da fare. Abbiamo posto in contrapposizione due universi che da quest'oggi avranno comunque motivi di scontro dialettico come minimo. Una madre orgogliosa, una famiglia ipernumerosa, 8 figli, ma ci sono famiglie numerose che in nome appunto della cristiana osservanza fanno un figlio dietro l'altro, perché naturalmente faccia parte, ha sempre fatto parte dell'orgoglio del dimostrarsi cristianamente ineccepibili, fare tanti figli vuol dire dare il giusto valore, il giusto senso al matrimonio, che è il luogo appunto della procreazione. Significa anche dire non fermarsi, non arrestarsi di fronte a quelli che possono essere dei problemi di tipo materiale. Di fronte a dare una vita, a creare nuove viti, non ci fermiamo mai, quindi tanti figli. Quindi ci sono queste associazioni che in nome della loro appartenenza fanno tanti figli, 7, 8, 10, 12, tutti sorridenti, vanno in televisione, vengono benedetti, questo stuolo di bambini. Il Papa ha detto qualcosa di totalmente nuovo, non si sa perché l'abbia detto. Questa mattina sono qui per riflettere su questo, visto che ci dà tante ispirazioni di riflessione. Contraddice quello che è sempre stato i figli, il detto primario di ogni buon parco: i figli sono una benedizione, fate tanti figli. Dice: non bisogna essere come conigli. Perché cosa fanno i conigli? I conigli fanno tanti figli. E noi questa mattina abbiamo deciso di riflettere proprio su questo. Vi siete mai posti il problema, diciamo, di dover essere cristianamente attenti nel matrimonio, alla procreazione, quindi fare tanti figli? Oppure per voi, se non si fanno tanti figli, vanno regolati i figli? E come si regolano i figli a questo punto? Perché per non essere come conigli bisogna regolarsi. E come ci si regola? Vediamo qualche esempio. 800240024, cosa dobbiamo fare quindi per non essere come conigli? Insomma, da quando ci siamo sposati è stata una continuazione. Per carità, mai che si fosse allentata, diciamo, questa corrente. 7 figli, professore, io sto ancora in periodo di allattamento. Non è colpa mia, professore. La buona volontà ci sta. E come no? Per amore ci siamo sposati. Si capisce che ci stava la buona volontà. E se andiamo avanti così, chi li mantiene a questi 7 figli? Lui è disoccupato, sono io che devo provvedere a tutto, professore mio. Ti capisco, tua moglie ha ragione. Sicuro, ma io pure tengo ragione. Ma non siamo bestie. Certo, tua moglie è bella, vi volete bene, capisco come... Però, figlio mio, ti dovresti controllare. Ma non è il desiderio che mi manca. Il desiderio lo tengo. E te lo fai passare. Dunque, voi non volete più figli? Ma no, tutto al contrario, professore, tutto al contrario. Chiste, non funziona più. Non me. Il desiderio ci sarebbe. Scusate, ma io non capisco. Ma voi che volete? Nato figlio! Con saluto! Allora sei venuta per fare visitare tuo marito? Sì, signor. Il problema era di questa famiglia, come fa parte in maniera canonica dalla commedia italiana, devono fare tanti figli, perché lei, se faceva i figli, non andava in galera e quindi continuavano a fare i figli. A un certo punto, al 12° figlio, Mastroianni comincia a dare qualche segno di defaillance e lei, che assolutamente non vuole tornare in prigione, quindi vuol fare un altro figlio, va dal dottore per aiutarlo. Non erano ancora i tempi del Viagra, ma c'erano sempre degli oscuri medicamenti che aiutavano alla progressione. Ma ci deve porre ancora questi problemi? Ancora, diciamo, la numerosità dei figli è sintomo di coesione della famiglia? Vi si è mai posto il fatto che in realtà oggi i figli sono quelli che si fanno per un proprio desiderio di farli, proprio stretto, perché i figli venuti per sbaglio possono starci, i figli fatti per fare contente le nonne, le zie, per dire se è un figlio ci possono stare, ma oltre un certo numero la gestione dei figli è abbastanza complessa, complicata, si può dire ancora più ce ne sono e meglio ce ne sono e meglio è. Quindi il Papa ha perfettamente ragione, ma in realtà dicendo questo contraddice come minimo decenni, io parlo dell'esperienza personale, di predicazione che fare tanti figli è qualcosa di importante, e tirare fuori l'argomento dei conigli così brutalmente, perché tutti quelli che finora hanno fatto tanti figli debbano sentirsi in questo momento associati all'accoppiamento conigliesco, di cui abbiamo probabilmente necessità di avere qualche chiarimento in più. Nel coniglio l'ovulazione della femmina è indotta dall'accoppiamento, anche se, come in altri animali domestici, l'attività riproduttiva è soggetta alle variazioni stagionali. Un ruolo molto importante ricopre il cosiddetto fotoperiodo, cioè il numero delle ore di luce nell'arco della giornata. Il fotoperiodo stimola nella coniglia il ciclo di ovulazione, che dura 16 giorni, dei quali 10-12 sono fertili. Così vi rendete conto esattamente perché si dice figliare come conigli, perché c'è questa, diciamo, particolarità genetica per cui la coniglia figlia moltissimo. Ma per saperne di più abbiamo chiamato un esperto, visto che noi vogliamo con grande attenzione e profonda riverenza e stima e senso di rispetto seguire o perlomeno capire l'insegnamento del Papa. Abbiamo al telefono Alberto Celestini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Che è titolare dell'allevamento Il Viale di Venaria Reale Torino. Lei alleva conigli da esposizione. Conigli da esposizione, sì, esatto. Secondo lei perché c'è questo luogo comune, citato anche dal Santo Padre, quindi perfettamente corrispondente comunque a un sentire generale, per cui fare tanti figli significa comportarsi da conigli? Cosa fanno i conigli? Ma diciamo, generalmente sicuramente il coniglio è una specie comunque molto prolifica, dato anche dal fatto appunto che le femmine hanno comunque una, diciamo, un estro, quindi un calore prolungato per tutto l'anno, come diceva anche nel video che avete mandato prima, legato anche sicuramente alla stagionalità. La femmina del coniglio è quasi sempre in calore. Sì, la femmina del coniglio è quasi sempre in calore. Quindi potrebbe uno, diciamo, dire, beh, allora si dice che nelle famiglie in cui sono tanti figli la donna è sempre in calore, è brutto pensare una cosa del genere, come accostamento. C'è sempre, diciamo, un senso di malcelato pruderie, tema della lussuria, si associa sempre il procreare figli comunque a un atto di piacere, sì, sessuale. Diciamo che per quanto riguarda gli animali sicuramente è una cosa puramente legata a quella che è la loro natura, la loro, quindi quella di procreare e di mantenere la specie, quindi diciamo è sicuramente diverso rispetto a quello che... Diciamo una cosa, dottor Celestini, non lo dice il Papa perché naturalmente è ambito lievemente più delicato, ma comportarsi come un coniglio, riferito all'uomo, significa avere una scarsa capacità di prolungare un atto sessuale. La conigliata è l'atto sessuale che dura un istante, perché il coniglio in effetti questo fa. Sì, diciamo che comunque in generale è comunque abbastanza un luogo comune, perché in realtà di base è così. Poi per esempio per la realtà che viviamo noi in allevamento, sicuramente dove la selezione dà sicuramente un'impronta diversa a quella che è il coniglio, diciamo, in natura, le coniglie che abbiamo noi in allevamento e tutto fanno sicuramente un numero di cuccioli inferiore. Poi dipende molto dalla razza, ci sono razze grosse che sono più evoluti, ma il coniglio maschio quando si accoppia da due botte via così è velocissimo. Io l'ho visto, vengo dalla campagna, ridicolo, sale sulla coniglia, finito e va via, è così. Quello sì, Gioco forza, quindi diciamo i vostri conigli, essendo conigli molto selezionati, perché come se, dove si espongono i conigli? Sono tipo gli animali, gatti, cani, così? Sì, sì, sono mostre di concorsi di bellezza, detto molto così, a tutti gli effetti. Comunque l'obiettivo di noi allevatori che facciamo questo tipo di allevamento è quello di promuovere e selezionare quelle razze che comunque vengono allevate sul territorio nazionale. Ma un coniglio, diciamo, cos'è? Un coniglio d'appartamento, si tiene in casa, bel coniglio? Cos'è? Sono, dipende dalle razze, ci sono razze piccole, le cosiddette razze nane, che vengono tenute assolutamente come un normalissimo animale da compagnia in casa. E poi noi alleviamo queste razze qui e poi anche tutta una serie di razze che sono quelle volgarmente dette razze da carne, che però in realtà noi selezioniamo proprio per la bellezza della razza e quindi per promuovere la valorizzazione genetica di quella razza. Sono quelli da fare alla cacciatora con le olive e con la salsina. Grazie dottor Celestini dei chiarimenti, sono stati utili, se no non potremmo capire bene le parole del Papa. Andiamo a qualche ascoltatore. 800240024, adesso che sapete tutto sui conigli, vi sentite conigli? Enrico da Padova, buongiorno. È caduto. Enrico da Mestre, sì. Buongiorno Nicoletti, sì. Molto velocemente, io immagino che le parole del Papa vadano, la sensazione generale che vadano un po' in contrasto con il monito della Chiesa di lasciare sempre aperto l'atto sessuale alla vita, cioè al concepimento. E questo è un errore che la Chiesa ha sempre fatto, perché deriva da un'interpretazione errata di un singolo passo del Vecchio Testamento dove si parla di un certo Onan, da cui poi viene anche il termine che disperdeva il seme, perché doveva far suscitare la progenie alla cognata. C'è stata tutta una patristica, ci sono stati tutti fior di padri della Chiesa che hanno condannato il sesso. San Bernardino, cioè la donna era il verminaio da cui bisogna tenersi lontani, diciamo che poi ci sono andati giù duri. Il sesso è stata considerata sempre una cosa detestabile, ammissibile soltanto, si ricorda i camicioni, non lo fa per piacere mio ma per dare un figlio a Dio col buco. Il sesso si faceva perché era proprio una necessità per fare figli. Un po' c'è stata questa cosa qui, da questo viene la conigliaggine come deteriore categoria dell'umanità. Gli uomini come conigli sono quelli che si accoppiano in maniera bestiale, animalesca, e fanno tanti figli. Però altresì è sempre stato detto che in realtà la maniera più cristiana per fare famiglia, quella di fare figli e indulgere il meno possibile sugli atti non finalizzati ai figli. Sentiamo Gianmaria, buongiorno. Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Niente, io volevo fare riferimento appunto a quella frase del Papa. Lei ha molti figli? No, per capire. Sì, ne ho due. Vabbè, due è la base. Di 13 anni. Perché il Papa dice che il numero esatto è 3, non so perché, 3 però bisognerebbe capire. Ma io penso che lui, soprattutto anche dal viaggio che ha fatto nelle Filippine, che quella bambina aveva... Ah, il jet lag, dice. No, a parte il jet lag. Però lui ha capito che in questa società avere dei figli diventa difficile, soprattutto per poterli fare crescere bene. Quindi dice, fatene meno, ecco. Ma sì, però non spiega come si fa a non farli. Questo ha perfettamente ragione, però lui vede che proprio è la società stessa che non ti dà neanche più la possibilità, e poi ci sono anche certi genitori che fanno i figli tanto per farli, tanto per dire ok, ho fatto un figlio, c'ho un figlio anch'io e tutti questi ma io non so adesso interpretare le parole del Papa è un esercizio di superbia, non voglio farlo, però lui si allude secondo me a un gruppo che c'era nei gruppi, nelle comunità, nei grandi agglomerati di persone che comunque si riuniscono in nome di una professione di fede, di un cammino di perfezione, dire facciamo tanti figli. I neocatecumenali fanno tonnellate di figli, i cellini fanno tonnellate di figli, cioè tutti quelli che appartengono alle comunità ecclesiali fanno figli a tonnellate, a vagonate. Oggi dovrebbero sentirsi tutti come conigli, dovrebbero essere lievemente, diciamo, impensieriti. Abbiamo sentito l'allevatore di conigli non a caso. Luca, buongiorno. Pronto, buongiorno. Molti figli lei, chiamasse qualcuno che oggi si è sentito chiamato in casa. Esistono delle famiglie di conigli che oggi hanno il coraggio di chiamare l'800240024? Luca. Ecco, al limite conigli per la velocità, non per il numero di figli. Ah, lei ha dei problemi di durata. Al limite su quello. Allora io volevo Ci sono dei farmaci anche per quello. No, vabbè, lei ha sollevato il problema. No, volevo dire una cosa sulla faccenda del Papa. Nel senso che questa cosa dei conigli mi sembra una cosa molto, insomma, molto umana, molto anche condivisibile da un certo punto di vista. Come dire, se si può bene, se no datti un limite, e sono perfettamente d'accordo. Quello che però mi sembra, però non l'aveva mai detto nessuno ex cattedra, esatto. Proprio così, infatti, sì, questo è verissimo. Infatti l'impressione generale che ho sul Papa, su questo Papa, è che per quanto vicino, per quanto umano, per quanto un Papa del popolo, stia facendo fuori la funzione del Papa, che invece dovrebbe essere, come dire, al di fuori del popolo. Se lei vede i raduni, non so, di grandi gruppi focolarini, neocatecumenali, ma con tanto rispetto, carismatici, hanno tutti quintalate di figli. Oggi quelli devono sentirsi tutti come conigli. Magari non perché glielo dice il Papa, ecco, al limite. Fermiamoci solo un istante mentre riflette, prende fiato Luca. 800 24 00 24. Io questa mattina vorrei chiamasse qualcuno che si è sentito chiamare in causa e dire sì, io probabilmente oggi mi sento trattato come un coniglio dal Papa. Melog, cronache meridiane. La fertilità massima della femmina è in primavera, si abbassa in estate ed è minima in autunno, quando diminuiscono le ore di luce. Anche nel maschio la caduta della fertilità inizia con l'autunno. Quando la femmina presenta la mucosa vaginale arrossata, significa che è in calore. Pertanto è pronta per l'ovulazione e disponibile all'accoppiamento, che di norma si svolge nella gabbia del maschio. Dopo l'accoppiamento è consigliabile lasciare la femmina 10-15 minuti con il maschio per consentire il corteggiamento, che concorre a stimolare l'ovulazione. La gestazione dura circa 30 giorni. So che può per qualcuno sentir parlare di rossore vaginale mentre butta il soffritto dentro l'olio bollente essere un po' pesante, ma dobbiamo farlo, è necessario, per capire a fondo, profondamente, quello che ha detto il Papa sul volo di ritorno da Manila. Non vi comportate come conigli, bisogna capire che fanno i conigli. Come faccio a non fare il coniglio se non so cosa fa il coniglio? Adesso ho dato proprio scientificamente un punto di riflessione. Cristina, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io l'ascolto tutti i giorni, ma oggi però mi sta deludendo molto. Perché, signora? Perché, le spiego, perché una volta che un Papa finalmente parla e manda un messaggio di dire non fate figli in nome della fede, ma fatelo un po' più responsabilmente e non automaticamente come fanno i conigli, e perché lo dovete denigrare? Io scusi, no, Cristina, credente. No, Cristina. Dove ha colto senso di denigrazione in questa trasmissione? La trasmissione che vuole scientificamente porre il problema. Ma Nicoletti, lei è una persona intelligente. Sì, proprio per questo. No, scusi, no, se un Papa dice non fate come i conigli, no. Io voglio capire che fanno i conigli, scusi. Ma sì, ho capito, ma lei deve invece divulgare un altro messaggio, sì. Di dire finalmente la Chiesa, scusi Nicoletti, sì. Ho visto mia madre mettere in croce mio padre perché volevi figli, perché la Chiesa stava così, e mio padre a tavola urlava, ma te li mantengono i preti questi figli? A sua madre costringeva suo padre, dice... Fecondami, allora, che il prete dice, vedi che però c'è una base. Ma era la mentalità cattolica, capisce, che l'atto sessuale era finalizzato esclusivamente alla procreazione. Però vede, scusi Cristina, visto che lei mi attribuisce immeritatamente intelligenza. No, non lei, immeritatamente. No, lei capisce, però mi sembra doveroso questa mattina far capire esattamente, le persone sono comportate come coniglie, che sua madre si comportava da coniglia e considerava suo padre un coniglio. È giusto che sentano di cosa fossero i conigli. Lo trovo molto istruttivo invece quello che dico questa mattina. Silvia, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Lei è una quasi coniglia? Mi scusi la voce. No, io ho solo tre figli. Sono contenta dei miei tre figli, però sono una donna, allora mi sono sentita un po' chiamata in causa quando il Sua Santità, io rispetto moltissimo, ma tutti lo rispettano, ha parlato di paternità responsabile. Perché non parlare anche di maternità responsabile? Oh, lei ha detto una cosa intelligentissima. Perché paternità? Perché decide l'uomo soltanto. La donna è il vas in cui l'uomo, il vaso in cui l'uomo mette il suo seme, quindi passivamente decide l'uomo. Ha detto una cosa, anzi, vede, mi ha illuminato su qualcosa che non avevo notato. Parla di paternità, Perché non ha parlato di filiazione, di generazione, paternità? Perché è l'uomo che decide. La donna comunque, sia coniglia con la vagina arrossata o sia donna con l'estro mensile, deve comunque fare quello che dice l'uomo. Questo è molto importante, quello che ha detto lei. Elio, buongiorno. Buongiorno. Sì. Sì, prego, mi dica, io non mi sento un coniglio, dicevo. Io però un pochino, figli. Cinque figli, già cominciamo a essere in aria conigliaia. Alessi Maggiore ha 48-49 anni, non ricordo nemmeno io, anche perché non vanno d'accordo con me e io non so niente di loro. Però quindi tanta fatica, se ne sono scappati via e hanno anche litigato. Ma non sono scappati via senza litigare, siccome non so mamma, praticamente non so, io non loro sono rimasti con la mamma, comunque io gli ho lasciato, gli è rimasta loro l'attività, avevo un'attività fiorenti. Vabbè, lei si sente quando avevo 16 sì, anni, ma lei non deve sentirsi in colpa. Lei fuori causa, oggi il Papa si rivolge alle persone, non come lei che ha fatto cinque figli, poi i figli prendono la loro strada, non se ne abbia male, non se ne faccia rammarico. Pensi che sono felici, poi se stanno con la madre si viva la sua vita. So che è duro, ma è così. Il Papa allude a quella filiazione coatta che ha accennato la nostra ascoltatrice prima, perché lo dice il prete. Ci sono state generazioni di uomini e donne che hanno fatto figli perché lo diceva il prete. E il Papa in questo almeno ha detto una cosa che probabilmente sconfessa una trattatistica non scritta, probabilmente una pastorale familiare che evidentemente a questo punto va riscritta da capo. E dicendo non fate come conigli, usando il più crudo e il più forte dei termini per definire chi fa tanti figli, dà degli argomenti di riflessione, secondo me. Benedetto, buongiorno. Non chiamano donna, hanno chiamato due e hanno detto cose intelligenti. Benedetto. No, sì, salve, no, io chiamavo per questo motivo. Io provengo da una famiglia numerosa, sono il primo di cinque fratelli. Ma cinque, però guardi, ancora una zona intermedia. L'area coniglio comincia dai sette in su, secondo me. Beh, io per quello che posso dire io che mi riguarda, ho 34 anni e sto aspettando, mia moglie sta aspettando il terzo, e mi rendo conto ad esempio che mia moglie, avendo avuto soltanto una sorella più piccola, come dire, non la pensavamo all'inizio nello stesso identico modo sul fatto di avere dei figli, però non penso che mettere al mondo conigli sia una cosa, voglio dire, sbagliata di partenza. Giustamente ci sono delle responsabilità che uno si prende. Ritengo soltanto che la possibilità di essere felici nasca anche dal fatto di poter avere dei figli, e che noi riteniamo fondamentali anche per essere, non so come. Vabbè, lei ha fatto un discorso perfettamente equilibrato. Mi scrive una persona: Nicoletti, basta, cosa ti ha fatto questo Papa? A me nulla. Oggi è la notizia di prima pagina in tutti i giornali d'Italia. Il Papa dice: per essere buoni cattolici non occorre essere come conigli. Io questa mattina mi sono posto la domanda: ma cosa mai faranno i conigli e cosa hanno fatto i cattolici per essere paragonati a conigli finora? E ho spiegato cosa fanno i conigli. C'è una fattispecie, una particolarità fisiologica nella coniglia femmina, che è particolarmente arrossata e continuamente arrossata nelle parti basse, e il coniglio maschio consuma dei velocissimi e quanto ripetuti nel tempo atti sessuali. Vi siete sentiti così finora? E non è un problema mio, prendetevela con il parroco che vi ha detto fate tanti figli. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Il suo punto di vista. Io sono un genitore di quattro figli, e tutti e quattro voluti, tanto da me quanto da mia moglie. Mi meraviglio del fatto che il Papa venga citato soltanto in alcuni casi. Dice tante cose questo Papa e poche sono ascoltate quanto queste. Bisogna contestualizzare la frase. Veniva da un viaggio in un luogo dove la popolazione non è tanto cosciente, secondo me, e in ogni caso non ci sentiamo conigli, anche se abbiamo fatto quattro figli. Vabbè, quattro figli non è, qua dico, ripeto, e lo dico per l'ultima volta, visto che mi stanno massacrando, cosa ti ha fatto il Papa. Se il Papa si espone a dire cose con un alto contenuto pop, noi che siamo dei cultori del pop le svisceriamo e ne parliamo. Non credo di fare nessun'opera di blasfemia, poi se questo qualcuno crede sono problemi suoi e non miei. A domani.